October. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. That's what the hell is that? Go tango, tango. There's kind of light there now. Roger, we got it, we've marked it. Who's the communication? Bravo tango, bravo tango. Buonasera, frammenti d'esistenze d'altrimenti all'ascolto. Siete sintonizzati su Radio Wombat e più precisamente su Lezioni Universali di Esistenza, cioè su quelle che, se non sono già la vostra radio e la vostra trasmissione preferite, dovrebbero subitamente diventarlo. Io sono Mario e qui con me, come sempre, alla mia balda sinistra, il baldissimo maestro Ottani. Buonasera, maestro. Buonasera a tutti voi che guardate le lune, qualsiasi esse siano. E quantunque esse siano? Se calcoliamo quelle in orbita intorno alla Terra, dovremmo considerare un numero che oscilla tra le 7 e le 27. Scoppiettante questo inizio per il maestro che... No, me lo riprendo io il microfono per fregiarmi di annunciare l'altra ospite che abbiamo qui con noi oggi. È con noi, infatti, la dottoressa Candy. Candy, allora, è un nome, come si dice, di fantasia che abbiamo adoperato perché si tratta in realtà della consulente per gli affari spaziali di Caterina da Londra. Buonasera, dottoressa Candy. Buonasera a tutti, onorata di essere al cospetto suo, ma soprattutto del maestro Ottani, devo dire la verità, insomma, per me è veramente un onore. Mi rendo conto, anch'io per primo ancora tremo ogni volta che inizia questa trasmissione. Sì. L'onore è mio. Oh, grazie anche per questa modestia, maestro. Mamma mia, dottoressa Candy, tremiamole. Molto bene, grazie della sua presenza, è qui con noi per commentare tutto quanto andremo a dire. Allora, bando alle ciance, iniziamo subito, mettiamo il riassunto di due puntate fa e poi iniziamo con i temi, le domande, le curiosità di questa puntata di Lezioni Universali di Esistenza. Viva Radio Wombat! Buonasera maestro, sono sempre io, la sua fan numero uno, scusi, posso ormai definirmi così. Spero che stiate tutti bene, un saluto a tutti gli amici di Radio Wombat, qui è Caterina da Londra e maestro, le volevo chiedere, ma ovviamente sicuramente ne sarà al corrente, ma qual è il materiale più utilizzato dagli extraterrestri per costruire le loro navicelle spaziali? Grazie anticipatamente e buona serata. È il plexiglass. Nel senso, ho una sorta di lega simile al plexiglass. Si è riscontrato tutto, come dire, all'interno di studi di reverse engineering. Perché? Perché non, come dire, i costruttori di queste aeronavi non sono tanto interessati all'isolamento della stessa dall'interno verso l'esterno. No, perché a questa funzione assolve il motore stesso della nave. Cioè crea uno scudo protettivo. Esattamente. Crea attraverso un campo gravitazionale che a sua volta crea una mini atmosfera. Colpa della luna crescente. siamo assolutamente contro questa aberrazione dell'ora legale. Negli altri pianeti adoperano sistemi analoghi per calcolare il tempo? Ma dipende, perché proviamo a immaginare un sistema binario, quindi dove non ce ne sono, due, oppure tre, oppure quattro, perché no, cinque, sei, sette, otto. E così via. E cerchiamo di sfatare qualche mito e scriverne qualche altro. Novoli in quale sistema solare si trova? Una domanda che attende ancora risposta. Magari uno si rende conto di questa cosa, che ne so, di aver avuto contatti durante l'infanzia, solo dopo un episodio avvenuto in età matura. E quindi celebriamo la nostra incertezza. Memorie aliene attive o memorie aliene passive? La memoria aliena passiva praticamente funziona che te diventi un hard disk portatile esterno, loro ci installano dentro gigabyte di memoria, tendenzialmente una o più vite, e l'arrestano, e ogni tanto, come dire, ci vanno a ripescare loro stessi. Alle volte possono essere accompagnate da un'installazione fisica, i cosiddetti chip che sono stati trovati all'interno di cervelli anche di neonati, che dovrebbero in qualche modo essere installati attraverso la narice destra. Quindi nel cervello? Nel cervello, direttamente dentro il cervello. Quelle attive, dal nome stesso, hanno la capacità di prendere possesso del proprio involucro. Io, per esempio, sono quasi sicuro di aver incontrato gli elfi nei boschi quando ero piccolo in escursione con la mia famiglia. La radio canta, Andre. Da nord canta l'aria. Danno altra radice, triade, non carta. Da dar contra aliena landa in catena d'or. A tal rondine d'arca, verso mancante, torna ad arda, lince. Sto tornando. Allora, Arda è ciò che è il globo terrestre per l'Europa. Arda è la stessa cosa del globo terrestre per la Terra di mezzo. Non ho capito bene. È Era come una, l'Europa. La proporzione non l'ho fatta bene. Curiosità. Nel 2003 ero il più giovane iscritto della società tolkieniana italiana. Oramai non così giovane e non così iscritto. Eppure quante novità scopriamo ogni volta anche sul tuo conto, caro maestro. Beh, dottoressa, maestro, possiamo... Candy. Sì, Candy. Possiamo, grazie, dottoressa. Era il nome fittizio, ricordo il vero e... Assolutamente top secret, mi raccomando. No, infatti no, stavo per lasciarmelo sfuggire. Che non accada. No, giammai, dottoressa, grazie. Che ne dice degli argomenti di cui abbiamo sul ricordato e due puntate fa discusso? Ma allora, diciamo che mi è rimasto molto impresso lo studio ingegneristico sul plexiglass. Sì, fondamentalmente. Cioè, penso che molto di quanto si è detto sulla non esistenza degli alieni sia anche dovuto al fatto che non si conosceva il materiale, insomma, si pensava che il plexiglass non fosse deputato a tali attività, ecco. Invece, incredibilmente, una lega con la quale siamo in confidenza può essere, esatto, il materiale. Esatto. Ma in effetti è sorprendente questo, eh? È veramente sorprendente. Ma noi non smettiamo mai di scoprire nuove cose. Penso che sia anche il, come dire, la mission di questa trasmissione, no? E pensiamo anche che dovrebbe esserlo di ogni uomo e ogni donna sulla faccia della Terra. Ma e invece, dottoressa Candy, abbiamo ripercorso insieme anche la poesiuola scritta dal nostro anagrammista. Lei, come sa, abbiamo detto, anagrammista, sì. Ciripeo, un ex papa, Giulio Ciripeo VII, che ogni tanto contribuisce con i suoi anagrammi. Assolutamente. Per omaggiare Caterina da Londra. Sì, personalmente forse anche. Ecco, era l'anagramma di Caterina da Londra. Ebbene sì. Sono tutti versi che anagrammano Caterina da Londra. Mi chiedo se ne sia consapevole. Non lo sappiamo, se ella lo abbia. Allora, avremo una comunicazione da Caterina da Londra prossimamente, penso, quindi sì. Provvederemo ad avere. Altrimenti, insomma, in quanto sua consulente posso tranquillamente provvedere a. Può essere forse quindi il momento di rileggere questi versi dell'anagrammista, così che almeno li mettiamo una seconda lettura. Può sempre servire, no? Assolutamente. Cioè. Io poi avrei una domanda per la nostra consulente ospite oggi. Vogliamo saltare la lettura e andiamo subito alla domanda? No, ma leggiamo pure. Poi e allora sì, molto velocemente. La poesia si intitola Caterina da Londra, è questa. Poteva effettivamente suggerire. Sì, cioè, un po' di didascalico questo titolo. È così. La radio canta, Andre, da nord canta l'arie, danno altra radice, driade, non carta, da dar contra aliena landa in catena d'or, a tal rondine d'arca, verso mancante, torna ad arda lince. Sì, e questi sono i versi del nostro anagrammista. Verso mancante, mi chiedo se anche quello sia un anagramma di Caterina da Londra, ma mi sembra che la V no. Molto sottile, tuttavia, sì. Questa, perché come sentiremo fra poco dalla lettera del dottor onorevole Ciripeo, non si dice onorevole, dell'altissimo Ciripeo, c'è qualcosa che ha turbato nel nostro scansare l'interesse verso questo verso mancante, che invece la dottoressa Chetti giustamente riporta. Che sollecita del mistero. Sì, l'ha capito la dottoressa Chetti. D'altronde è infatti la consulente d'affari spaziali. Ma infatti, in questo senso mi domandavo, questi affari spaziali, no? Sì. Ma, cioè, sono, immagino, affari importantissimi, giganteschi, enormi, che travalicano i confini di svariati sistemi dell'essere, solari. Mi permetterei di. Ecco, infatti, volevo proprio puntare su questo, ma quindi travalicano i confini anche all'interno, nel senso, perché per me gli affari spaziali sono anche qualcosa che avviene nella mente. È no? Una meta travalicazione, direi. Fantastico. Quindi assolutamente sì. Molto ardito. Sì. Quindi anche. Non posso dire di più, per ovvie ragioni, insomma, come non posso dire il mio nome, ma assolutamente sì, quel che è fuori anche dentro. Viaggi non solo spaziali. No, anche introspaziali, assolutamente. Certo, grazie. Spero di averle risposto, maestro. Assolutamente. Davanti peccabile. A lei comunque. Ha detto quel che poteva dire. Esatto, cioè, quel che si poteva. Grazie. Saltiamo tutto, perché via, dai, saltiamo tutto. Saltiamo l'articolo che mi ero preparato, lo recupereremo nelle prossime puntate, perché siamo in verve di domande, a me qua sembra. E allora, siccome ci sono arrivate molte domande alla nostra messaggeria del Wombat, che ricordo, chi volesse mandarci può farlo semplicemente cliccando su, cioè andando su messaggeriawombat.vado.li, ci sarà un bottoncione rosso, uno lo può premere. Le piace l'indirizzo, dottoressa? Fattissimo. Molto bene. Vado lì. Perché non qui, mi chiedo? Sarebbe stato preferibile, forse, perché lì secondo me crea l'ambiguità dell'accento, perché uno deve scrivere come la provincia di Livorno e non come lì con l'accento. Tuttavia, ecco, scommettiamo sul disfacimento del nostro sistema scolastico, quindi forse non serve nemmeno forse è più facile così che. Sì, è vero. Ci piace vincere facile. Mi immagino che sul qui ce lo metterebbero invece. Assolutamente. Quindi messaggeria wombat.vado.li, c'è un bottoncione rosso, uno può premere e mandarci dei messaggi. Questo è molto facile, così fanno Caterina da Londra e molti altri ascoltatori. E infatti, caro maestro, ci sono arrivati dei messaggi. Sono per te, li ascoltiamo. E iniziamo da qua, io direi. Sono tutti dal pianeta Terra? Allora, vediamo. Sì. Ok. Quest'oggi sì. Quest'oggi tutti dal pianeta Terra. Ascoltiamoli. Il primo da uno stato strano dell'essere, però, degli esseri del pianeta Terra. Quindi. Il Texas? No. No, però... Quindi niente da Novoli. Abbiamo non detto ancora. Pianeta Terra, per cui nessun. Una domanda che attende da ancora risposta. No voli. noi siamo contro l'allargamento dell'aeroporto, se non fosse chiaro. E via, allora, la prima domanda non è una domanda, è un saluto, caro maestro, un saluto da una nostra vecchia conoscenza, da un vecchio ospite che era stato con noi qualche puntata fa, si presenta da solo, sentiamo che cosa ci dice. Sono Merry Cristo, Merry Cristo Jesus, e devo andare in stato meditativo avanzato di ibernazione, penso fino circa al 5 settembre, dove tornerò dal appunto regno spirituale con un volo da Okinawa probabilmente, e ho intenzione di lasciare un messaggio per il maestro e anche per tutti voi, tutti coloro che ci accompagneranno. Ecco, ecco, ecco. Allora, questo era il messaggio di Merry Cristo Jesus, il nostro caro vecchio ospite, nato tra... Era un messaggio che voleva... Il messaggio. Infatti, cioè, allora, lo so. Vi manca qualcosa, vi manca qualcosa, vi manca qualcosa. L'avete capito? Ascoltiamo subito il secondo messaggio di Merry Cristo. Prego. Lo devi capire. E fine. Non so se è chiaro, eh. Ripetiamo? Lo devi capire. Capito tutto. E questo è il messaggio che ci lascia Merry Cristo Jesus, il quale sta andando in stato di meditativo avanzato fino al 3 settembre, che... Sì, è uno stato, come dire, che è raggiungibile benissimo con un aereo da Okinawa, appunto. Da Okinawa sarà il ritorno, io credo, nelle nostre lande per portarci i segreti che avrà un trovato. Un aereo per Okinawa. Sì? Non lo so. Lui ci ha detto che lo dobbiamo capire comunque. In realtà ha detto a te che lo devi capire. Io l'ho capito. Detto a lei, maestro. È vero, quindi se l'hai capito te e noi altri no, dopo tutto forse va bene. Io ho capito e questa è l'ennesima grande lezione per me stesso medesimo. Allora ringraziamo Merry Cristo Jesus. Io ringrazierei me stesso. Allora io saluto Merry Cristo Jesus e ci vediamo a settembre. Avanti tutta, one bat. Il messaggio onore del vero è anche per chi ci ascolta, però va bene. Ora che ci ripenso ha detto era un po' per tutti, però forse era un po' troppo alto perché noi altri comprendessimo. Ma chi ci ascolta, io li ringrazio innanzitutto, prima di tutto. Sì, sì, no, sono io che sono un po' indietro, ma studierò questa settimana, studierò. Allora, il secondo messaggio invece non è propriamente un messaggio, è successo qualcosa un paio di settimane fa su una trasmissione bellissima che verrà da qui su Radio Wombat, che è Le Porte di Tannhäuser, dove il buon Tuco insieme a Mary Blood... Allora, mi sono incartato, quindi... Io dirò per farti scartare soltanto Richard Wagner. Richard Wagner, molte grazie, io volevo dire Bloody Mary invece. Allora, è successo questo messaggio sulle porte di Tannhäuser di un paio di settimane fa, Bloody Mary insieme... Porca miseria, mi sono rincartato, cazzo. Vado. No, mi chiedevo se, facendo riferimento al messaggio di prima, ci siano degli stati di meditazione che non sono avanzati e in cosa consistono? Prendere l'autobus può aiutare in questo senso. Ok. Non sono stati di meditazione avanzati. Alcuni dalle mie parti, intendo quindi Saturno, certo. Intendo, tendono a chiamarlo abbiocco. Ok, ok. Però non è una parola che usiamo sul pianeta Terra, ma posso provare a capire di cosa si tratta, essendo consciente. Sì, potrebbe essere quella sensazione che davano i gran premi di Formula 1 dopo pranzo domenicale dagli zii. Io sospetto che sia quello. Bellissimo. Lo stato che immagine. Potrebbe, sì. Sì, che sì. Con quel rumore di fondo, sì, un po' vero? Ipnotico. Sì, sì. Soprattutto quando c'era lo sciopero dei giornalisti e quindi non c'era nemmeno il commento e sentivi soltanto il motore. Sussisteva il rumore. Quelli sono gli stati meditativi non avanzati, giusto? Sì, quelli sono stati meditativi non avanzati, ma io penso che, come tante altre forme di meditazione anche un po' più avanzata, sì, siano facilmente... autoprovocabili, autoinducibili. Nei momenti di bisogno. Alla bisogna. Alla bisogna. Come si dice sempre su Saturno. Sì, quando ci stiamo spaccando gli anelli, diciamo, su Saturno. Molto bene, molto bene. Filologia d'antan, in qualche modo. Evviva! Allora, è il momento dell'altra domanda, che non è una domanda, è una considerazione che è successa sulla trasmissione condotta da il buon Tuco insieme a Bloody Mary su Wombat, le porte di Tannhäuser. Ci hanno detto, chiesto una cosa, questi due minuti, uno spaccato di trasmissione, parlavano della fantascienza in America, negli Stati Uniti d'America negli anni 50, era questo wow. Il tuo... Sì, sì, veramente una grande puntata, vi consigliamo l'ascolto di quella e della serie intera sulla fantascienza, quella cinese. Ma quella... attraverso quale mezzo, diciamo, loro facevano riferimento alla fantascienza americana degli anni 50? Cioè stiamo parlando di film, di libri? Di sì, queste due cose, erano film entrambi. E libri, okay. Sì, sì, film e libri. Anche serie televisive, è stato molto interessante, infatti consigliamo davvero l'ascolto di queste e dell'altra serie di puntate che stanno facendo, ma tuttavia ci chiedono, dicono, domandano delle cose, c'è un momento in cui hanno bisogno di noi e via, provvediamo, ascoltiamo, rispondiamo. Fra l'altro, altra cosa importante per contestualizzare e per capire anche perché si sviluppa tutta questa roba in quel momento è che il 24 giugno del 1947 un imprenditore statunitense, Kenneth Arnold, afferma di aver visto dal suo aereo degli oggetti volanti non identificati che si muovevano a cuneo e rimbalzavano sul pelo dell'acqua come dei piatti. Era più o meno intorno a Washington e poi vi racconta di aver visto anche un lampo azzurro che proveniva da uno di questi oggetti volanti e di aver immaginato che si trattasse di un nuovo tipo di aeromobili con le ali, cioè se ne inventano sempre di nuove. E quindi niente, lui fece questa dichiarazione. Le sue parole però in realtà pare che furono riportate in maniera piuttosto confusa. I giornalisti le travisarono, strano perché non succede mai sto fatto. Lui fondamentalmente aveva parlato di un movimento, appunto, come si diceva, che assomigliava un po' a quello di un piatto, un disco sull'acqua. La stampa travisò un po', insomma, diciamo che ci recamò abbondantemente e iniziarono a parlare di questi dischi di dimensioni enormi, con delle straordinarie capacità di manovra e movimento, roba che comunque lui non è che veramente aveva detto, cioè lui aveva detto, boh, io ho visto della roba strana, però non è che proprio era andato così nel dettaglio. Sì, sì. Loro hanno un po'... Ne descriveva il movimento come un piattello sull'acqua, sì, diciamo. Sì, lasciò il resto all'immaginazione, i giornalisti l'hanno un po' gonfiata. E niente, quindi praticamente da lì nacque la prima definizione di UFO, cioè il termine UFO nasce. Cioè l'associazione di UFO ai dischi volanti. Esatto, esattamente. Perché UFO penso sia un termine già militare. Che però nacque in quel momento, cioè parlando di quell'avvistamento fondamentalmente, almeno così ho capito. E qui infatti dovremmo chiedere a Lezione Universale di Esistenza qui. Ho paura a chiederglielo. Sì, ho anche molto paura e sicuramente noi ci stiamo sicuramente avventurando in territori a noi come dire ostili. Vabbè, se vuole, no, sai, noi parliamo di fantasia e loro parlano di realtà. Certo. infatti e quindi ci sommergeranno di errata corrige. Ma mandateci un audio cortesemente. Esatto. Allora, nessuna errata corrige in realtà, quanto delle precisazioni. In ambiente anglofono si parla di UFO, giustamente. In ambiente latinos si parla di ovni, oggetti volanti non identificati, e incredibilmente si dice allo stesso modo in spagnolo e in portoghese anche. Coincidenze? Io non credo. Veratissima la dottoressa Candy. E in questo senso... Nemmeno io credo, comunque. In questo senso io faccio un'ulteriore precisazione. Essendo dalle parti di Washington ed essendoci l'elemento acqua di mezzo, suppongo, che è avvenuto nelle vicinanze, come dire, al di sopra di un lago, probabilmente. Questo ribadisce ancora una volta e ci conferma come questo tipo di oggetti, questo tipo di tecnologie che abitano questi oggetti e questo tipo di abitanti che abitano le tecnologie di questi oggetti, attivamente o passivamente? Attivamente, in questo caso assolutamente attivamente, certo. O passivamente nel caso con quelle che abbiamo, di cui abbiamo, quelle entità di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, che sono i cosiddetti Ebe. No. entità come dire artificiali extraterrestri, quindi una sorta di golem o fantocci al servizio di entità biologiche invece. Certo. Anche queste sono entità biologiche, però non hanno proprio la, come dire, una grande capacità di volere. Hanno una capacità di intendere, ma non, ma proprio, non proprio di volere. Sarebbe un problema per la giurisprudenza, per esempio. Perché... Chissà, infatti, la giurisprudenza spaziale. Forse non lo, non la usa. Non a caso la consulente tira in ballo, sì, certo, certo. La legge di affari spaziali. La legge dello spazio. E diritto interstellare. E in questo caso quindi ancora una volta ritorna il motivo del valicare, trascendere la materia come se fosse burro. Perché nello stesso modo e con la stessa velocità e facilità con cui si muovono nell'etere, nell'aere e anche nel vuoto al di fuori della nostra atmosfera, si muovono anche all'interno dell'acqua e probabilmente anche della terra. Vedi il suddetto motore. Ma perché dell'acqua ne parlammo nella puntata sulle sirene, Selene. Esatto. No, Selene era quella sulla Luna, insomma ne parlammo, sì. Comunque, blu profondissimo era il titolo di quella puntata. E sulla Terra, entro la Terra non ne avevamo ancora parlato però. Perché entro la Terra poi in realtà ne abbiamo anche mezzo parlato quando abbiamo parlato di Shamballa. In quell'occasione sì. Lì, perché diciamo che se delle aperture esistono già, perché crearne di nuove, no? In quanto io mi muovo velocemente e posso arrivare da una parte all'altra. Sì, ma quindi gli ovni all'interno della Terra vanno in dei canali scavati, non vanno attraverso la solitamente, materia? Solitamente sì. Attraverso allora dei portali o... No, canali proprio scavati, ecco, in questo senso. Fisici. Ma non avrebbero difficoltà a trattare la materia terra, quindi la crosta terrestre, il mantello e tutto quello che costituisce la parte rocciosa, diciamo, del globo, il nucleo, come se fosse allo stesso modo acqua o aria. Quindi per aggiungere a questo ancora qualcosa e per dare insomma retta al buon Tuco, che giustamente dice che qua dispensiamo verità, il primo avvistamento UFO si può dire quello di cui si ha testimonianza nell'epoca moderna sia effettivamente... No. Si deve risalire sicuramente più indietro. Si deve risalire sicuramente più indietro. Mi viene da citare la già citata battaglia di Los Angeles, per esempio. All'interno di quella battaglia sono numerose le testimonianze. Battaglia che poi... Una delle poche battaglie di cui Barbero non ha parlato, peraltro. Uomini contro alieni. Capisco. Non l'ha affrontata. Il professore. Barbero vuole mantenere una faccia. È un medievalista, sì. Però guarda il passato. Non ha un piglio una sul futuro. Una fascia del passato, tra l'altro. Sì, e poi sì. Probabilmente vuole continuare a fare il lavoro che fa, giustamente anche. Sì. Però... tenendo anche della credibilità per sé, sì. Insomma. Ci sono dei professori come il professor Malanga che invece non temono di andare non oltre. Non temono. Alcuni non temono. C'è chi non teme, comunque ricordiamo il dileggio. Ricordiamo al professor Barbero che c'è chi non teme. Però per quanto riguarda la battaglia di Los Angeles, ritornando sull'argomento di cronaca ormai passato... come dire, ci sono almeno una trentina di testimonianze di questi militari, questi soldati americani che hanno proprio avvistato un oggetto nei cieli di Los Angeles, e poi ce ne sono molte di più tra i civili, fra il resto, che poi nei giorni successivi alla battaglia sono state raccolte sistematicamente da numerosi giornali locali. Meno da quelli nazionali che facevano ovviamente più un lavoro anche di propaganda e, come dire, di resoconto su quella che era un'azione di guerra, secondo loro, effettivamente. Perché comunque ha coinvolto l'artiglieria con i missili terra-aria, che le ha scaricato un quantitativo di munizioni davvero consistente nei confronti di questo oggetto avvistato, che era considerato un qualcosa che potesse avere a che fare con i giapponesi all'epoca. Siamo nel 1944. Mm-hmm. Ma se non sbaglio, anche di Roswell è stato detto poi che erano palloni sonda. Russi. Sì, sì. Sonda russi. Sì, sì, sì. Beh, è una copertura più volte utilizzata, mi pare. È una copertura più volte utilizzata, come i cosiddetti anche palloni meteorologici. Sì. Anche questa è una copertura che viene più volte utilizzata. Alle volte corrisponde anche alla verità, perché effettivamente se uno provasse a studiare, a vedere quelli che sono questi palloni che servono ad analizzare questi oggetti, che servono ad analizzare l'atmosfera terrestre, sono comunque in plexiglass. Non credo. Però hanno una forma davvero avevano più che altro una forma davvero singolare, soprattutto in quegli anni, ed erano anche piuttosto appariscenti e avevano questa singolare caratteristica di riflettere la luce solare. Okay. E quindi di generare facilmente nell'osservatore di turno un bagliore, una sorta di anche vedere fischi per fiaschi, no? Chi non ha mai visto fischi per fiaschi, però mi sembra fiasco. Sia Marte che su Marte lo dicono. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, ecco, sì, sì. Tipico, bene. Tipica espressione marziana. Esatto. Però appunto in questo senso non è sicuramente questa il primo avvistamento dell'era moderna, ma è quasi sicuramente il primo avvistamento dove l'espressione UFO e poi di conseguenza OVNI viene utilizzata, diciamo, viene migra dal lessico militare a quello civile, sì. Sicuramente sì, questo sì. E quindi un'altra verità qui da Lezioni Universali di Esistenza, prego, alle porte di Tannhäuser, prego a tutti quelli che ci ascoltano come sempre. Allora, siamo dannatamente in ritardo, mettiamo un pezzaccio, rientriamo subito, abbiamo da fare un sacco di cose ancora con voi, viva! The moon in the sky. No, avevo sbagliato. Avevo sbagliato base. Facevano cacare quelle traduzioni. Facevano cacare. Diciamo le parolacce su Radio Wombat. Facevano cacare, cazzo. Come i trapper. Diciamo quello che ci va. Aveva fatto ridere Alex Britti, che le aveva paragonati i trapper, dico, a suo figlio di 5 anni che si gasa nel dire per la prima volta parole proibite. Molto bene, allora, nuovo cambio di scaletta per noi. Tutto cambia, e perché io dovrei restare uguale? Cantava, come si chiama? Oddio. Todo cambia, hai capito, dai. Cambia, sì. Todo cambia, non mi è venuto in mente, ah, così. Arabe de palo. No, sì, no, quello era dipende, quello era dipende. Diceva dipende da che dipende, da che punto guardi il mondo. Tutto dipende. O da che pianeta guardi il mondo, da, caro arabe. Invece, con prospettive un pochino più allargate, però è morto. Non caro io. Arabe. Pace all'anima sua. Che la terra ti sia lieve, sì. Ma anche Saturno. E perché no, anche Novoli. Molto bene, cambia tutto. E adesso che cosa stiamo per fare? Stiamo per finalmente, incredibilmente, inaspettatamente, malgrado il ritardo di oggi, che non è infatti ancora giunto, del maestro Ricky Gianco, che sarebbe dovuto essere con noi, abbiamo deciso che oggi è il giorno in cui finalmente andiamo a disvelare, ormai 3 mesi dopo il primo mese di attesa, cosa è accaduto alle nostre bottiglie con le quali abbiamo compiuto l'esperimento della memoria dell'acqua. Gesti e gestazioni. Gesti e gestazioni, giusto commento, maestro, grazie. Dottoressa Chetti, lei... Sì. Candy, lei sa vero di cosa stiamo parlando? Sì, assolutamente, anzi vorrei sapere chi ha perpetrato le offese a queste... Non l'abbiamo fatto, dottoressa, l'abbiamo lasciate lì, dopo le offese iniziali che hanno subito e dopo il primo mese in cui le abbiamo guardate, a macerare ulteriormente, a rimuginare sulle prime offese. Macerare iniziali, vendetta. Quelle iniziali erano corali. Erano ok, corali. Ecco. Ah, sì, forse era questa. Corali. No, le iniziali erano corali, sì. E allora, forse questo è il momento. Lei, dottoressa Candy, come sa... Mi avvio da brava bionda a svolgere la mansione di Valletta. Svela un dettaglio di lei, dottoressa, grazie. Bene. Sì. Ho un depistaggio. Oh. Attenzione. Esattamente. Maestro. Essendo consulente. Affari non così spaziali. Allora, noi avevamo messo a macerare del riso in 3 bottiglie d'acqua, in una ci avevamo scritto sopra amore, in una odio, in una nulla come elemento di controllo. Quella con scritto amore l'abbiamo amata a parole e sguardi, quella con scritto odio l'abbiamo odiata a parole, e sguardi. E 3 mesi dopo, siamo ormai 4, stiamo di nuovo andando a vedere che cosa è capitato alle suddette bottiglie. Oddio, lo sguardo della dottoressa Candy è sbalorditivo. Dottoressa, dica tutto lei prima di farcele vedere a noi, per favore. Analisi. Grazie intanto per questa sua partecipazione, dottoressa, grazie. L'autorevolezza lo, è... Lo trovo incredibile. Analisi. Perché da scettica fino a prova contraria, devo dire che i risultati sono sorprendenti. Cosa sta notando, dottoressa? Ma illustriamo. No, allora, diciamo... A primo acchito, scusate, ma sono veramente sconcertata. L'amore è completamente limpido. Ancora? Ancora. 4 mesi dopo l'amore rimane limpido. L'amore rimane limpido, penso anche oltre i 4 mesi. L'amido e la decomposizione di tale elemento non può nulla contro l'amore. Come Harry Potter sapeva bene, insomma. Sì, è vero. Lili. Certo. Dopo tutto questo tempo. Dopo tutto questo tempo. Vi lascio da soli. È seria. So di cosa parlate. Ma... È seria, ovviamente. La no. Dottoressa ha accolto anche le sue citazioni di Star Wars, maestro, durante le scorse puntate, fra l'altro. Assolutamente. Ho inviato dei messaggi, note, insomma. Sì. D'altronde la serietà non è acqua, della messaggistica, ma è acqua con riso. Amata. Ma è incredibile. Quindi è rimasta limpida mentre... L'odio è assolutamente torbo, mi sentirei di dire. torbido, quindi è sì, torbido, scusate, sono turbata dall'odio. Ma fai vedere un attimo la bottiglia. Anche il neutro è ormai me torbido. Me la sporgi un attimo quella dell'odio. Avviciniamo allora un l'odio, eccolo. Allora, guardiamolo, procediamo. Incredibile. Allora, porto davanti a te, maestro. L'odio odio. Al cospetto del maestro. Impallidì. Allora, sicuramente è turbida, c'è da dire. Però anche sembra effervescente. Latino. È vero. Io ho notato una cosa, che tuttavia c'è più evaporazione. Guardate quante goccioline sull'odio. Sì. È venuta una forte evaporazione sull'odio. Evaporazione. Guardate neutro, quante cose in sospensione del neutro. Il neutro rilascia materiale in sospensione. Cosa avete detto? Niente. Si è offeso. Cosa fa più male se non essere ignorato? L'indifferenza. Ma certo. Mi sembra... Cioè, in un primo momento l'odio aveva subito peggio. Ma poi... La nostra accusa. Il silenzio. Però il silenzio sulla lunga è stato... Il silenzio ha colpito. L'indifferenza. Forse la più torbida... È successo questo. Sì, forse allora, il neutro è, diciamo, la bottiglia a cui non è stato fatto niente... Ignorata riporta il grado di torbidezza e decomposizione maggiore. Allo stesso tempo non riporta una grande presenza di particelle di vapore acqueo sulla parte dove non c'è l'acqua della bottiglia. Vero, non c'è. Invece nell'odio, seppure c'è una torbidezza leggermente minore a quella del neutro, c'è comunque una grande quantità di vapore acqueo sul collo della bottiglia. Perché l'ira fa ribollire. Mentre amore è estremamente incredibile, amore è rimasta limpida. Amore è rimasta limpida. Ma non c'è nessuna traccia corpuscoli minuscoli in confronto alla nettezza delle sospensioni dell'odio e del... una cosa assurda. Assurdo. Non fosse stata qui forse non ci avrei creduto. Grazie per averci dato anche questa testimonanza da scienziata. Sì, da scienziata assolutamente. Il prossimo esperimento mi dicono che coinvolgerà invece l'urina. No, lo farai a casa tua e qua riparleremo invece d'altro. Bene, molto bene. Allora, che cosa è successo tuttavia? Delle due l'una, secondo me. O l'odio ha rilasciato e svolto il processo prima, adesso è in una fase di arretratezza, quindi ha rilasciato, evaporato e quello che era in sospensione sta nuovamente discendendo. Oppure, semplicemente, sulla lunga, come dice la dottoressa Candy, l'amore, l'essere ignorata della bottiglia neutra è stato più offensivo. Io prima di essere una consulente spaziale ero una consulente pedagogista e posso dire che... Per bambini indaco e non solo, di tutto lo spettro. Fantastico. Dei colori. Fantastico. E l'indifferenza è assolutamente la più crudele delle azioni. Impariamo ogni volta una cosa nuova qui su Lezioni Universali di Esistenza. Io penso che forse dalla prossima stagione sarebbe il caso di iniziarci a pagare. Molto bene, grazie dottoressa Candy, incredibile. Adesso che cosa facciamo? Le lasciamo ancora 3 mesi in sospensione e le rivediamo dopo l'estate? Oppure, finito l'esperimento e riportiamo la questione ai cristalli di ghiaccio che volevamo svolgere? Io dicevo, questa roba del pagare in realtà mi interessava. Non distraiamo, che è una consulente per gli affari spaziali, magari conosce qualcuno lì tra le dirigenze galattiche, chissà. Maestro, facciamo tutto per la gloria, la gloria. Come cantavano le orme. La gloria. Tutto per la gloria. È tardi, non c'è tempo di fare altro, se non forse... Sbigottirsi. Va bene, sbigottiamoci, non facciamo altro, sbigottiamoci, rimaniamo tutti sbigottiti e ci sentiamo fra 2 settimane. Ancora qualche saluto lo speriamo di avere fra 2 settimane da parte della dottoressa Candy, che almeno ci farà un saluto, anche se non sarà tutta la puntata. Assolutamente, sì. Sia io che Caterina da Londra saremo sicuramente partecipi per quanto da lontano. Vi faccio questa promessa, uno spoiler solo per voi. Io con questa ospite consulente Candy, mi sono trovato benissimo. Grazie, la ringrazio, onorata. Ce ne dovrebbero essere di più di consulenti di questo tipo. Di consulenti Candy. Sì. Sono sicuro anch'io. Grazie ancora, dottoressa. Grazie a voi. A risentirci fra 2 settimane. A risentirci. Non siate indifferenti, oppure sarete sporchi. lo devi capire. There now. Roger, we got it, we've marked it. Who's gonna be the king?